del formaggio, poi si metteva il prosciutto cotto o arrosto e poi si faceva riscaldare il pane, ma non il tutto, e poi si chiudeva. Oggi invece di chiuderlo, sai cosa succede? Si sdraia. Oggi il nuovo toast è sdraiato, sdraiato come fosse al sole in una spiaggia. Si chiamano open toast, cioè è praticamente un toast composto solamente da una fetta di pane e non da due. Poi rigorosamente deve essere one inch e poco più di 2,5 cm. Tu pensi, ormai queste sono le nuove regole. È arrivata questa moda da San Francisco e allora tutti giù a Milano a sposare questa moda, scrivere di questo Fancy Toast. Questo Fancy Toast è un locale che sono andato, ovviamente, prima di parlarne sono andato a visitare. A controllare. E ho visto che c'è questo, ci sono, ti dico i toast, me li sono segnati tutti. Nutella Toast, capirai cosa hanno inventato. Peanut Butter Toast, Berry Toast, Fancy Toast, che è fatto con avocado, ravanello e semi di zucca, Salmon West Toast. Insomma, però è tornato il toast, è tornato il toast in questa maniera. Noi, come al solito, siamo dei fresconi, andiamo in giro per il mondo, vediamo qualcosa così, lo portiamo e immediatamente giù, come l'altra volta quando ho parlato di poké, la stessa cosa. Però io devo osservare, quindi osservo, però ti dico che c'è veramente un boom dei toast, stanno nascendo catene, non sdraiate, magari anche quelle chiuse, diciamo, alla maniera tradizionale del toast. Ad esempio c'è un altro toast molto particolare che si chiama Crunch, ed è una catena che si chiama Crunch Toast to Toast. Cioè questa Crunch è un modo, diciamo, di fare una focaccia molto particolare, lievitata, che è buonissima senza arrivare al toast, che c'è un pizzaiolo famosissimo italiano che si chiama Renato Bosco, che l'ha lanciata due anni fa con un grandissimo successo. Però ora sono nate delle catene, Napoli, Aversa, Viterbo addirittura. Poi c'è ancora Tosteria Micasa, altra catena che sta spopolando, oppure Tosteria Italiana. Insomma, vuol dire che c'è veramente un grandissimo ritorno. Ma io devo dire che sento la nostalgia del toast, perché, diciamoci la verità, come dicevi tu prima, mangiare un toast, quello tradizionale come si deve, è veramente una gara molto, ma molto dura. A Milano ne salvo 3 o 4, non di più, ma anche in giro per l'Italia, cioè andando in giro, si vedono questi toast dentro a questa, tu me lo permetti, questo preservativo, perché siamo un preservativo dove lo tengono dentro queste buste sigillate, poi dentro si vede arricciato un pezzettino di prosciutto cotto che viene fuori. Insomma, devo dire che sono tristi. I toast che si vedono quando escono dal frigorifero così, mi verrebbe da piangere, mi verrebbe dire passo, perché assolutamente io mangio un'altra cosa, perché è veramente una grandissima tristezza questo fatto. Però il toast, secondo me, oggi è lanciato come il panino. Il panino ha avuto ancora un grande boom, nascono paninoteche in giro un po' ovunque, delle catene anche super specializzate con dei panini molto particolari. Il panino italiano è cominciato ad arrivare all'estero, però il toast è ancora indietro e speriamo che piano piano arrivi, però che torniamo alla tradizione, cioè torniamo di un ottimo pan carré, torniamo con dei prosciutti come si deve, che non abbiano nitriti, nitrati e che non siano maiali trattati con dei medicinali. Quindi però andiamo a un toast veramente sano, con tanto di burro, però magari fatto con burro come si deve, e quindi a un toast sanissimo, perché se tu ci pensi, un toast si digerisce molto bene, è facile da mangiare e quindi potrebbe essere, come posso dire, a mezzogiorno un succedaneo di tanti pasti che rimangono sullo stomaco e la gente non riesce più a lavorare. Sono d'accordissimo. Grazie Davide, a tra poco. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Brucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Pianta, la Grucio, non possiamo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Da lunedì 2 gennaio alle 20, su Radio 24. Il sabato del villaggio. E ci troviamo ancora con questo appuntamento speciale con il meglio del sabato del villaggio.

torno a casa e non so di... E per concludere questo appuntamento con il meglio del sabato del villaggio per questo pomeriggio di San Silvestro, abbiamo riascoltato infine l'incontro con l'artista che è proprio la rivelazione del 2016, cioè Calcutta. Avete sentito un tipo davvero molto molto molto particolare. Il nostro appuntamento del sabato però, come sempre, non finisce qui, perché dopo il giornale radio ci ritroveremo ancora insieme, perché ci sarà l'ultima ora del sabato del villaggio, che è quella che cambia nome, cambia sigla, cambia tutto. Tutto si trasforma in RadioTube. A tra poco!